Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle iniziative, alle istanze, alle riflessioni e alle pratiche del movimento animalista, antispecista e vegan. L'unica trasmissione in onda dal 2012 con l'ambizioso obiettivo di costruire una società cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 537, nella quale torneremo a parlare di Covid, con un servizio dedicato al ruolo che hanno gli allevamenti nella diffusione di questa e di altre pandemie. Ma parleremo anche di asini e affronteremo in modo critico il delicato tema delle onoterapie e delle ippoterapie. Ci sarà spazio per una ricetta di cucina gentile e per ottime sonorità selezionate per voi dal nostro curatore musicale Giuseppe Coco. Speriamo di avervi incuriositi. Il ruolo che hanno avuto gli allevamenti nella diffusione del virus Covid-19 non è ancora definitivamente accertato, ma quello che sappiamo con certezza è che l'industria che ha interesse a diffondere un'alimentazione carnista, che per semplificare chiameremo agrobusiness, ha disboscato un'area equivalente al continente africano per nutrire e allevare animali destinati al macello. Alcuni di questi vengono poi commercializzati illegalmente o venduti sul mercato degli animali vivi. Lì delle specie che probabilmente in natura non si sarebbero mai incrociate vengono tenute in gabbia fianco a fianco e i microbi possono tranquillamente spostarsi da una all'altra, mutando fino ad adattarsi e colpire gli animali umani. Purtroppo però le industrie agroalimentari, pur essendo gli imputati numero uno per la produzione e la propagazione delle recenti pandemie, traggono addirittura vantaggio da queste situazioni di emergenza, in quanto vengono considerate dai governi come industrie di base per la sopravvivenza delle persone e pertanto ricevono aiuti straordinari e sussidi consistenti, finanziati con il gettito fiscale, cioè le tasse dei cittadini. Ma è vero che la sopravvivenza umana viene garantita da queste industrie? La risposta è no. Questa è una menzogna ingannatrice perché la produzione contadina indigena su piccola scala, anche urbana, è quella che alimenta il 70% dell'umanità. Sul delicato e centrale tema del ruolo degli allevamenti nell'emergenza da coronavirus vi proponiamo un servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci. Ci sono almeno due buoni motivi, anzi tre, per concentrare l'attenzione sul tema degli allevamenti intensivi in quest'epoca di pandemia da coronavirus. Il primo è che proprio in questi giorni alcuni grandi allevamenti sono diventati focolai di Covid-19, con numerosi operai contagiati. È successo negli Stati Uniti, in Canada, in Germania e anche in Italia. Il secondo è per il peso degli allevamenti fra le cause che sono all'origine del cosiddetto spillover, il salto di specie dagli animali agli umani compiuto da certi virus, compreso quello che sta mettendo a soqquadro le nostre vite. Il terzo motivo è più generale e ne parleremo fra poco. Primo punto dunque, i focolai. Negli Stati Uniti 30 macelli già alla fine di aprile erano stati chiusi causa Covid-19, tanto che la produzione di carne di maiale è calata del 45%, quella di carne bovina del 22%, cifre enormi in uno dei paesi che mangia più carne al mondo. E infatti il presidente Trump ha dovuto approvare un decreto salva hamburger con il settore che è stato dichiarato strategico, in modo che possa lavorare nonostante l'alta percentuale di contagiati. In alcuni supermercati sono comparsi ai banconi cartelli che indicavano un limite massimo di acquisti per ogni singolo consumatore. In Germania almeno 600 lavoratori di macelli dislocati in diversi land della federazione sono risultati positivi al coronavirus, obbligando alla chiusura degli stabilimenti. In Italia 71 casi di positività sono stati individuati in un macello pugliese. C'è un tratto comune che lega i lavoratori dei macelli oltre al contagio. Sono quasi tutti immigrati, operai del rango più basso, tutti sottoposti, anche in tempi ordinari, a una pressione fisica e psicologica enorme. Si tratta pur sempre di uccidere, uno dopo l'altro, degli esseri viventi che non vorrebbero morire. La diffusione del Covid-19 fra questi lavoratori, a quanto sembra, è in larga misura dovuta alle difficoltà di mantenere sul lavoro le distanze fisiche prescritte, distanze che in ogni caso sappiamo sono una barriera ma non una garanzia rispetto al contagio. Il secondo punto riguarda il peso degli allevamenti nella diffusione delle epidemie. È un tema ormai acclarato, ne hanno ben scritto, fra molti altri, David Quammen nel suo celebrato libro Spillover e il WWF nel suo rapporto sulle zoonosi, cioè il passaggio di agenti patogeni dagli animali agli umani. Gli animali d'allevamento sono un serbatoio di incubazione ideale per i virus. Sono individui che vivono in condizioni di sovraffollamento, in condizioni igienico-sanitarie precarie e sono tutti debilitati dal trattamento che subiscono. Più di un virus in passato è arrivato all'uomo dai selvatici attraverso gli allevamenti. In aggiunta, gli allevamenti sono una causa indiretta della deforestazione e della distruzione degli ecosistemi, a causa delle coltivazioni di soia e di altri mangimi, per l'estensione dei pascoli, come denunciano da anni tutti gli ecologi, i biologi, i naturalisti del mondo. E la distruzione degli ecosistemi, come è noto, è all'origine dello spillover. Potremmo quindi ribaltare la presa di posizione del presidente Trump e dire che la chiusura dei grandi allevamenti intensivi è la vera misura strategica da prendere, non già la loro protezione. Infine, la questione più generale che lega gli allevamenti e i consumi di carne ai mutamenti del nostro tempo, inclusa la catastrofe climatica. All'origine di tutto, a ben vedere, c'è una logica di mercificazione e predazione che non risparmia niente e nessuno. Prendiamo in prestito le parole di Anna Maria Rivera in un suo recente intervento su Manifesto e Micromega. Un'ideologia e delle pratiche analoghe guidano la sacrificabilità selettiva degli umani. I più vulnerabili, indigenti, precari, stigmatizzati o alterizzati, come abbiamo potuto constatare anche nel corso dell'attuale pandemia. Si pensi ai decessi di massa prevedibili, in non pochi casi colposi, che si sono registrati nelle residenze per anziani, e si consideri la condizione dei detenuti nelle carceri o nelle prigioni extra ordinem, che sono i CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, nonché quella dei senza tetto, italiani e stranieri, fra questi ultimi perfino richiedenti asilo, ma anche dei braccianti immigrati rimasti intrappolati nei ghetti a rischio di morte per inedia, per non dire delle stragi nel Mediterraneo, che neppure la pandemia ha arrestato. Essa, anzi, è stata assunta a pretesto per la chiusura dei porti e i respingimenti verso l'inferno libico. Per intaccarlo, almeno, quest'ordine perverso, ma anche per impedire che lo stato di eccezione si tramuti in forma ordinaria di governo, dovremmo radicalizzare lucidamente e coerentemente la critica del capitalismo globale, sempre più predatorio e mortifero, e contrastare politicamente il progetto neoliberale di espansione della logica del mercato e dello sfruttamento ad ogni forma di vita e ad ogni sfera dell'esistenza. Pieces of your heart, let me peer inside. Let let me in, where only your thoughts have been. Let me occupy your mind as you do mine. Un po' in sordina si è festeggiato il World Donkey Day, ovvero la giornata mondiale dell'asino, che per scelta è stata festeggiata una settimana dopo la ricorrenza del 1° maggio, la tradizionale festa dei lavoratori. Sì, perché in fondo è questo che si vuole celebrare. Come fa notare un comunicato stampa che condividiamo molto di Animal Equality Italia. Con la festa dell'asino si vuole celebrare l'asino come tradizionale strumento di lavoro che per secoli ha affiancato l'uomo. Infatti questo splendido mammifero per anni è stato utilizzato come animale da traino e da carico per le sue caratteristiche di robustezza, resistenza e mitezza. In molte zone del mondo gli asini sono l'equivalente di autoambulanze, di autobus, di trattori, di macchina familiare, di furgoni per il trasporto di materiale. Hanno accompagnato le truppe alpine in guerra su tutti i fronti, incluso quello del terribile inverno russo, dove, quando stremati morivano di freddo e di fame, venivano fatti a fette e mangiati da soldati altrettanto affamati e infreddoliti. La giornata mondiale dell'asino nasce da un'idea di Radzik Ark, uno scienziato che si occupa principalmente di biodiversità e in particolare degli animali del deserto. Ark ha creato un gruppo Facebook raccontando le dure prove e le terribili tribolazioni subite dagli asini in tutto il mondo, riconoscendo agli asini un ruolo essenziale nella storia umana. Oggi il lavoro dell'asino è stato in buona sostanza sostituito, almeno per quanto riguarda le attività agricole, dalle moderne tecnologie che lo starebbero mettendo però a rischio di estinzione, a patto che non si trovi il modo di perpetrarne l'uso nel tempo. E allora ecco la soluzione che viene proposta: rivalorizzare l'asino all'interno dell'agricoltura sociale, impiegandolo nelle attività didattiche e ricreative come il trekking someggiato, oppure come coterapeuta all'interno di gruppi di lavoro, o come è stato definito, tosaerba ecologico. Abbiamo visto tutti in rete certe disturbanti foto di turisti stranieri, alcuni dei quali di taglia decisamente extra large, fatti salire in groppa minuscoli asinelli per essere trasportati in modo ecologico su e giù per le ripide scalinate della greca Santorini, ma anche della italianissima Alicudi. In questo modo forse garantiremo a queste specie di essere perpetrate nel tempo, di avere un nuovo ruolo all'interno delle attività umane, con un approccio non più agricolo ma sociale, anche se non dobbiamo dimenticarci che l'asino ancora oggi viene largamente utilizzato anche in fiere e in pali di paese, in modo umiliante, tutt'altro che dignitoso. Ma tutto questo non farà altro che giustificare il loro sfruttamento, prolungando il distorto punto di vista umano su questi animali, considerati appunto ancora oggi come oggetti, come motorini, come trattori, come infermieri al limite, come soldati, come terapeuti, mestieri che però non hanno scelto e ai quali non hanno avuto la possibilità di sottrarsi. Ancora una volta stiamo ribadendo che gli altri animali, per esistere, devono piegarsi a soddisfare le necessità e i bisogni degli esseri umani. Per cui no, noi della redazione di Restiamo Animali, così come il comunicato stampa dell'associazione Animal Equality, pensiamo che per la giornata mondiale dell'asino ci sia veramente poco da festeggiare. Riguardo al delicato e controverso tema della onoterapia e della ippoterapia terapie di cura destinate a soggetti umani, nelle quali però vengono coinvolti asini o cavalli dopo opportuni addestramenti, vi proponiamo un commento di José de Giorgio Schorl dell'Istituto di Formazione Antispecista Learning Animals. Sono José de Giorgio e con Francesco de Giorgio, mio marito, mi impegno con Learning Animals e i suoi percorsi di formazione nell'ambito della conoscenza dell'animalità, anche umana, e del cambio culturale di paradigma ad essa connessa. Una delle cose spesso più difficili che vedo nei partecipanti dei nostri percorsi di formazione è riconoscere quanto il buon intento può in realtà ostacolare la comprensione dell'altro e del suo punto di vista. Nella società di oggi si ha sempre più consapevolezza degli altri animali, ma ci si focalizza come umano sull'avere l'approccio giusto, un fare giusto, un comportamento definito giusto, senza prendere in considerazione il vissuto o l'attenzione dell'altro. Molto banalmente possiamo anche offenderci se il nostro buon intento, un gesto gentile, una carezza o qualcosa del genere, non trova un buon riscontro, se non viene apprezzato. Cerchiamo infatti più la conferma della nostra intenzione invece di cercare di prendere la responsabilità su cosa puoi fare per l'altro senza gratificazione. L'umano in generale è più impegnato nel pensare per l'altro invece di essere presa a preservare i pensieri animali e di imparare come prendere in considerazione il punto di vista dell'animale stesso. Oggi vi parlo di un esempio di queste tendenze che lo fanno diventare molto chiaro. Vorrei parlare di questo filmato in cui si vede un cavallo che va a trovare dei pazienti in ospedale. Il filmato specifico di qualche anno fa e mondialmente ha ottenuto tante notizie positive su giornali e sulla social, il che fa capire quanta voglia c'è di buone notizie connesse al mondo degli animali non umani. La domanda vera è: cosa ne fa il cavallo in questione? Questo cavallo specifico del video si chiama Peo e la prima cosa da chiedersi non è quello che Peo fa o sembra di fare, ma la cornice in cui lui vive. Allora puoi scoprire che Peo vive in una cornice di equitazione decisamente convenzionale. Nel caso suo è stato iperaddestrato come cavallo utilizzato nel cosiddetto dressage artistico, nato da metodi convenzionali dove il movimento del cavallo non è più suo, ma dell'umano che lo comanda. Tipicamente proprio preparato per diventare quello che si definisce un cavallo a prova di bomba. Non si spaventa per niente, ma in realtà non vive più niente. Amputato dalle proprie domande, dalla propria curiosità, reagisce sulla vita, non ne è proprietario. La propria essenza è nascosta sotto tanti strati di comportamenti e reazioni addestrati, in una seconda fase di vita, in preparazione alle sue visite con il rinforzo positivo, in modo che alza la gamba come specie di saluto entrando in ospedale. Ma è un saluto causato dalla reazione ad un comando, un click, un comportamento mascherato, un'oppressione che sembra innocente perché è in realtà non molto diverso dalla maggior parte dei cavalli nel mondo che vivono una convivenza con l'umano in simili condizioni, ignorati nel proprio essere soggetto. È solo l'utilizzo umano che cambia. La profonda voglia di essere in contatto dell'umano deve iniziare con riconoscere le maschere, le proprie e quelli a cui vengono sottoposti gli animali non umani. Quel cavallo in ospedale è stato addestrato per entrarci. Dove è la sua famiglia? Qual è il contesto socio-familiare che vive? Cosa gli è rimasto al cavallo dalla propria curiosità, la sua integrità, la sua dignità? Poi che nascano queste iniziative e che vengono apprezzate, e purtroppo anche del tutto comprensibile. L'umano oggi si aggrappa anche a un gesto che è solo un'immagine, un movimento stimolato, vuoto. Lo scambio diventa così sempre più appiattito e da lì nasce poi questo bisogno di qualcosa di positivo, un'immagine che permetta a un mondo intero di trovare un escapismo, invece di trovare una conoscenza forte che permette una vera evoluzione. Non serve un cavallo per creare un momento vissuto, non serve al cavallo subire una vita utile per altri. Serve l'animalità. Staring out the window of this hotel room, the waxing and waning giant nor the moon. Brother Allo, are you good for a few more bucks? I promise someday soon I'm gonna change my luck. The rain is making rivers of the Stockholm streets, soaking through my coat, through my boots to my feet. No one can ever tell me when enough's enough. Descending every ladder to the final rung. I pay for this pain I'm running through my blood. You could never tell me when enough's enough. To trade a few more nickels for another nail. Don't let my will give out before my body fails. Taxi to the corner, it's another mile. Be another corner somewhere else tomorrow. No one can tell me that enough's enough. I pay for this pain I put into my blood. The chopping and churning of the northern tides. Rip out a wound as deep as the ocean is wide. And I thank my God because I prayed for it. I went to my knees when the medicine hit. Felt the slightest sting as though an insect bit. No one could ever tell me that it's time to quit. The faint flickering lights my candle barely lit. Brother Allo, are you good for a few more bucks? No one could ever tell me that enough's enough. I paid for this pain I put into my blood. I paid for this pain I put into my blood. I paid for this pain I put into my blood. Nella rubrica etico-gastronomica Il pasto gentile di questa settimana, il tosco vegan chef Gabriele Palloni dedica la sua ricetta agli asini. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E per restare in tema con la giornata mondiale dell'asino, vi propongo un'antica e tipica ricetta valdostana. Un dolce di recupero, piatto povero ma corroborante, che veniva preparato per il rientro dai campi e che deve il suo nome, zuppa dell'asino, perché di tanto in tanto veniva offerto anche agli animali dopo una dura prova. Quindi gli ingredienti per 4 persone per la zuppa dell'asino sono 400 g di pane raffermo, possibilmente pane di segale, 200 g di zucchero di canna, un cucchiaio di olio di oliva, un litro di vino rosso, una stecca di cannella, 3 chiodi di garofano. Fate bollire il vino con la stecca di cannella e i chiodi di garofano. Lasciate ritirare e quindi togliete dal fuoco, lasciando raffreddare. Nel frattempo scaldate l'olio in una padella e fate dorare le fette di pane. Una volta pronto, tagliatelo a quadretti, dividete in 4 tazze e coprite con lo zucchero. Togliete la cannella e i chiodi di garofano dal vino e versatelo inzuppando bene il pane. Lasciate intiepidire prima di servire. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come. Your face is fallen sad now, for you know the time is nigh when I must remove your wings, and you must try to fly. Una menzione speciale ci sentiamo di farla per il Rifugio degli Asinelli, un centro di recupero che si trova in provincia di Biella e che ospita 125 tra asini, muli e bardotti. Gli animali provengono da vari paesi europei, la Grecia, la Romania, la Francia, la Svizzera, ovviamente anche l'Italia. Molti sono giunti da casi di maltrattamento e abbandono. Una volta entrati al rifugio, gli asini hanno la garanzia di un futuro di cura e di rispetto da parte di uno staff specializzatissimo. Nessun animale di proprietà del rifugio verrà mai venduto, prestato o fatto riprodurre. Tutti i maschi sono sterilizzati e in caso sia riabilitato completamente potrà avere l'asino la possibilità di essere affidato a famiglie che ne facciano richiesta. Quindi chi ritenesse di essere in condizione di poter adottare, non a scopo lavorativo, uno o due asini, può contattare il Rifugio degli Asinelli e seguire un programma di affidamento. È possibile destinare il 5 per 1000 al Rifugio degli Asinelli. Il codice fiscale è 022 70 47 0020. I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I used my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I passed the time, drawing a slash for every time. Secondhand went by a group of five, done 12 times. Siamo in chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata alla nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 538 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.